Radio Onde Furlane, il Tomont par Furlan. Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Programma che inizia ora dalle ore 20 e 10 fino alle 21:30. Comunque andiamo prima all'ascolto di quella che è la sigla di questo programma. Questa era la sigla della trasmissione che è iniziata ora, ovvero Zardins Magnetics, che qui siamo in diretta dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Ci state ascoltando sui 90 MHz e comunque andremo avanti fino alle ore 21:30 circa. Andiamo invece ora all'ascolto di questa band, band storica inglese, che si è formata poco dopo la metà degli anni 70, band che assieme ai Cress, altra band inglese, diciamo che hanno fatto la storia dell'anarco punk, e noi da un loro EP targato 1979 ci ascoltiamo un paio di brani. Loro sono i Poison Girl e questo era appunto il loro mini album X. Well, of course the family is necessary. Tell me one civilized country in the world not based around the family unit. Take away the family and you're left with chaos. Everyone knows that. The breakdown of family life is the cause of all our present social problems. The man is naturally the hunter and the woman stays behind to take care of the home. Mothers need men to provide and protect them. Women provide the necessary security. Critically in love with you. Critically in love. Volevo dire anche questi Poison Girl, disco datato 1979, ci stiamo ascoltando ancora un brano, forse ne ascolteremo un altro successivamente, e che comunque esattamente 5 anni fa, poco insomma a fine febbraio circa, la cantante V Subversa ha appunto, diciamo che è andata in miglior vita, e alla splendida età di 81 anni. Loro sono comunque così. Hello, darling. common for women of your age. Mandi a tutte e a tutti anche da parte mia, benvenute a Zarlys Magnetics. E dopo questa bella introduzione musicale, iniziamo a parlare. 8 marzo, giornata internazionale della lotta delle donne contro il patriarcato, contro il capitalismo, contro l'autoritarismo di Stato, così abbiamo dato questa definizione nostra, diciamo, ma insomma è un po' più estesa di quella originaria, a questa giornata nel corso di un intervento che abbiamo fatto, un intervento al microfono che abbiamo fatto appunto a Trieste lunedì 8 marzo in occasione del presidio che è stato organizzato da Non Una di Meno. E allora iniziamo appunto questa chiacchierata intorno all'8 marzo leggendo un articolo di Compagne per l'autodeterminazione. E un articolo interessante che poi potete trovare sia sul sito di Nicoletta Poidimani sia sul sito della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma, e appunto un articolo che si intitola L'importanza di storia e memoria, ovvero partire da noi e ricominciare dal farci le domande giuste. È un articolo interessante perché appunto parla di storia anche e di alcuni concetti che diciamo sono desueti, si sentono difficilmente nell'attualità, e cioè separatismo e autocoscienza, e ci parla e quindi ci arricchisce, diciamo, questo articolo parla di argomenti e di contenuti che non sono così molto praticati e che è importante però conoscere e anche riprendere in mano, diciamo. Poi parla di concetti come autodeterminazione, liberazione, genere, classe, parla contro il vittimismo, parla contro il riformismo femminista e parla anche di metodi, diciamo, di discussione, autoformazione, di lotta. Specificamente parla dei piccoli gruppi. Comincio a leggere. L'importanza di storia e memoria, ovvero partire da noi e ricominciare dal farci le domande giuste. Abbiamo alle nostre spalle secoli di elaborazioni culturali e rivendicazioni politiche, con donne e gruppi di donne femministe e rivoluzionarie che hanno dato la vita, con lo sguardo sempre rivolto alla liberazione di genere e di classe. Negli anni 70 del secolo scorso c'era un'infinità di piccoli gruppi. Ognuno con la sua connotazione portava avanti elaborazioni e lotte e nessuno metteva in il cappello sulla lotta dell'altro gruppo. Poi ci si riuniva in grandi assemblee con una base comune: il separatismo, il riconoscimento del patriarcato come soggetto dell'oppressione delle donne. In piazza nessuna poteva pensare di egemonizzare le altre. Intorno al 1975, quando è stata varata la legge sui consultori, la parte riformista emancipazionista ha cominciato a spingere per l'ingresso delle donne nelle istituzioni, rompendo così il fronte femminista, aprendo cioè allo Stato uno spazio d'azione per riportare le lotte femministe nei ranghi e demonizzando quelle che avevano fatto una scelta diversa, definendole violente, utopistiche. E così le caratteristiche che erano state imposte alle donne, l'essere accoglienti, disponibili e pronte a sacrificarsi, vennero rappresentate come le caratteristiche che avrebbero cambiato la società. Ancora oggi, di fronte alle devastazioni patriarcali e neoliberiste, ci sentiamo dire che dobbiamo salvare i figli, la scuola, lo stato sociale, il mondo. L'emergenza sanitaria ha ampiamente dimostrato che il debito di gratitudine legittima il monopolio statale dell'esistenza delle persone, delle loro scelte e desideri. È espropriazione totale data dal fatto che non si sappia più riconoscere né nominare l'oppressore. È ora di fare chiarezza e trovare il coraggio di nominare lo sfruttamento e le complicità con questo sistema. Parlare di femminismi è falso e fuorviante. Il femminismo per noi è uno solo ed è quello che percorre strade di liberazione in tutti gli infiniti modi che le donne possono mettere in campo. Se no, va chiamato in altro modo: emancipazionismo, lotta categoriale, corporativismo. Eppure molte compagne sembrano vivere oggi una perdita di orientamento politico. In ambito misto riconoscono il nemico nell'oppressore e in chi collabora col sistema, partiti, sindacati, eccetera. Ma questo bagaglio di consapevolezza sembra perdersi quando sulla mera rivendicazione femminile scendono in piazza coi grandi carrozzoni. Occorre chiederci cos'è per noi la militanza e cosa significa per noi essere compagne. Il neoliberismo ha trovato nel patriarcato il modo di supportarsi sulla nostra sfera affettiva ed emotiva, espropriandocene e ricattandoci con la minaccia della perdita della nostra esistenza sociale. Usa tutti gli strumenti di controllo e oppressione per stimolare la partecipazione attiva dell'oppresso all'oppressione, dello sfruttato allo sfruttamento. Se non politicizziamo i nostri discorsi, diventiamo conniventi. Dobbiamo ripartire dalla base per trovare nuove modalità di militanza e sciogliere i nodi politici che troviamo sulla nostra strada. La delega, su cui si basa il processo neoliberista, è il principio fondante su cui si è incrinato e scardinato il meccanismo di auto-organizzazione e autodeterminazione. Per questo crediamo che oggi sia necessario ricominciare dalle domande fondamentali. Cos'è il femminismo? Pensiamo davvero che la felicità sia fuori da questo sistema o no? Il femminismo può essere un'istanza rivoluzionaria? Le risposte si collocano da una parte o dall'altra, o in un percorso di liberazione o in una sorellanza fittizia, perché interclassista. Organizzarci in piccoli gruppi. Questa non è epoca di movimento di massa perché manca una reale condivisione di un'analisi politica femminista, ma tutto rientra nella visione di emancipazione, integrazione e asservimento. Non ci interessa un femminismo prêt-à-porter che non metta più in discussione nulla di sé né del sistema. L'attuale emancipazionismo chiude la bocca ad ogni dissenso col pretesto di non frammentare e ci riconduce ad un'essenza donna che non esiste, perché nella realtà esistono le donne con le loro bellezze, miserie e contraddizioni. Ma nella nostra cassetta degli attrezzi troviamo ancora il nucleo centrale dell'autocoscienza, che è il processo di soggettivazione separatista e orientato alla liberazione, non all'emancipazione. Abbiamo quindi una soggettività individuale che tiene sempre conto della relazione e dello spazio collettivo come principali elementi di sviluppo, e l'implicazione sempre costante tra l'impegno nella trasformazione di sé e la responsabilità verso una realtà da modificare. L'autocoscienza è la pratica grazie alla quale il privato diventa politico attraverso un esercizio di condivisione, confronto, ascolto senza giudizi, da cui matura una consapevolezza collettiva, oggi data troppo spesso per scontata nei contesti che si dicono femministi. Il piccolo gruppo ci permette di trovare i nostri tempi di analisi e di azione, di andare a fondo nelle questioni e usare strumenti vecchi e nuovi per guardare il mondo che ci circonda e liberarci dal morso del neoliberismo. Dire che si è in poche è un ritornello denigratorio e vittimizzante. La quantità fa paura se non siamo più in grado di guardare la qualità, ma la qualità sta proprio dove c'è poca quantità, perché si esce dalla logica di consumo delle tematiche femministe, che porta a non incidere nemmeno nella propria quotidianità. Nel piccolo gruppo il confronto non porta ad una mediazione, ma alla crescita di tutte. Il piccolo gruppo politicizzato non è proposta definitiva, ma nel suo elaborare proposte specifiche su lotte specifiche garantisce una crescita che si può moltiplicare, fare rete, e si pone il problema di incidere e far sviluppare una differenza rispetto alla delega. Il piccolo gruppo è una linea di tendenza per ricominciare da noi, ma arrivare all'esterno. È una lente di ingrandimento per comprendere il reale. È produzione teorica a lungo termine. Ricominciamo a dire che il patriarcato è un modello economico, sociale, fortemente gerarchico, funzionale all'accumulazione. Il neoliberismo vive dell'inglobare e risputare, anche con la logica della tutela, le lotte antagoniste, le soggettività altre, i desideri di uscita da questa società, per usarli a proprio vantaggio. Miliardi di donne quotidianamente hanno lottato e lottano per i bisogni vitali. Molte vengono massacrate perché difendono la terra, vengono umiliate in quanto donne, stuprate come bottino di guerre fomentate dalla borghesia compradora e dai lacchè dei poteri occidentali, ma non sono vittime, sono protagoniste della storia, la loro storia, ma anche la nostra, poiché sono la dimostrazione pratica del dolore e della dignità. Per rompere definitivamente quei meccanismi di colonizzazione occorre devittimizzare i nostri immaginari e rompere col debito di gratitudine. Analizziamo come sono messe al lavoro le donne e rimettiamo il corpo al centro delle nostre riflessioni. Le nostre acquisizioni sono oggi preziose per tutti gli oppressi, non solo per le donne. Delega, autocontrollo sociale, colpevolizzazione, legalità e sicurezza ridotta a tutela sono i nodi fondanti della società dell'accettazione e della sottomissione volontaria, che annientano le possibilità di difenderci autonomamente e ci fanno dimenticare la possibilità dell'auto-organizzazione. I soggetti infantilizzati non sanno più scegliere da soli, ma si aspettano la salvezza da qualcun altro. È impossibile costruire una lotta intrecciata di genere e di classe se non si costruisce l'autonomia delle donne sul piano del reciproco supporto e contemporaneamente su quello organizzativo generale. Questo assunto riguarda non solo le donne, ma gli oppressi tutti, e la nostra lotta potrebbe costituire un valido esempio. Vogliamo ancora essere all'altezza di un universo senza risposte e cercare l'autenticità del gesto di rivolta. Compagne per l'autodeterminazione. Marriage is what brings us together today. Ecco, e quello che ho appena letto era appunto questo documento delle compagne per l'autodeterminazione, un documento analisi, diciamo, della situazione del femminismo ora e anche delle opportunità che la lotta femminista però rivoluzionaria può avere anche per tutti gli altri oppressi. E allora, dicevo prima che siamo andate e andati a Trieste lunedì 8 marzo alla manifestazione appunto organizzata in Piazza Unità da Non Una Di Meno, e abbiamo partecipato a questa manifestazione anche perché alcune compagne di Non Una Di Meno ci hanno invitate a presentare la lotta delle detenute della sezione femminile del carcere di Trieste, del Coroneo, e poiché abbiamo seguito abbastanza da vicino e con una certa intensità appunto la lotta e le proteste delle detenute, lotta molto importante, abbiamo deciso appunto di partecipare, quindi di andare a dare di fare un nostro intervento su questo argomento anche nell'ambito della manifestazione di Non Una Di Meno. Ricordo intanto due cose: che le detenute hanno portato avanti la loro protesta in due giornate specifiche, il 1° febbraio e il 15 febbraio, attraverso delle battiture alle quali anche noi abbiamo dato supporto dall'esterno. Le rivendicazioni di queste prigioniere si sono approfondite, diciamo, nel corso tra la prima e la seconda battitura. E le dico così, senza entrare poi, le abbiamo lette anche in altre puntate di Zadis Magnetics, ma comunque la cosa importante è appunto l'indulto, le detenute rivendicano l'indulto, le misure alternative per le persone che hanno residui di pena brevi, e rivendicano controlli sanitari, diciamo una sanità accurata, e anche tamponi, e quindi un lavoro sulla prevenzione anziché la pressione per fare i vaccini, e quindi l'obbligatorietà o comunque appunto la pressione affinché loro facciano i vaccini, e questo perché appunto hanno coscienza del fatto che probabilmente nella situazione di abbandono e di incuria in cui è tenuta la sanità all'interno delle carceri, il fatto di vaccinare farebbe dimenticare completamente, diciamo, le altre problematiche, oltre ad esporre magari persone con multipatologie a problematiche ulteriori. Poi chiedono ad esempio un contatto, una relazione col GOAP, che è il centro antiviolenza di Trieste, e fanno emergere questo discorso delle donne violentate che sono detenute all'interno del carcere. E poi un controllo sull'aspetto del cibo, diciamo, perché fa schifo, e questa non è una novità, insomma, purtroppo anche molte malattie che i prigionieri e le prigioniere sviluppano all'interno del carcere sono dovute anche a un'alimentazione carente e scadente. Poi chiedono di poter avere i contatti con l'esterno, e quindi non solo, diciamo, i colloqui con i propri cari, ma anche i corsi, insomma la presenza di volontari e di soggetti esterni al carcere, e poi appunto tutte le relazioni con gli operatori sanitari esterni al carcere, ad esempio con il CERT, che è presente pochissimo all'interno e che in questa maniera rallenta questa assenza, diciamo questa latitanza, rallenta tantissimo anche i processi. Allora, appunto lunedì 8 marzo abbiamo presentato un po' tutte queste istanze delle detenute per portare loro solidarietà, perché loro ci chiedono di parlare il più possibile fuori anche dai circuiti, diciamo, strettamente militanti, anticarcerari, di questa loro lotta. E poi abbiamo parlato anche dell'anniversario delle rivolte carcerarie dello scorso 8 e 9 marzo 2020. E siamo sempre a Zardins Magnetics. Stavo raccontando appunto del nostro intervento alla manifestazione dell'8 marzo a Trieste, organizzata da Non Una di Meno, e dicevo che abbiamo appunto dato voce alle rivolte e alle proteste delle detenute del Coroneo. Abbiamo parlato dell'anniversario, cioè appunto di ciò che successe un anno fa nelle carceri italiane. Poi un compagno ha anche ricordato Maria Soledad Rosas, appunto Sole Baleno, ammazzati dallo Stato molti anni fa, ma che non possiamo dimenticare. E anche si è parlato anche delle Rote Zora. Ecco, poi è importante dire che oltre a questa presenza in piazza, come promesso alle detenute, siamo andati anche in via del Coroneo, appunto abbiamo fatto un passaggio davanti al carcere per un saluto, e le detenute hanno risposto, si aspettavano, perché erano state avvisate di questa nostra passeggiata di saluto, e appunto hanno risposto e avevano fatto sapere che avrebbero partecipato attivamente allo sciopero dell'8 marzo anche loro. Allora, a proposito di questo, e sempre della lotta delle detenute del Coroneo, vi leggo una lettera che parla di una persona, in cui una persona si racconta, che però ha un significato che va al di là anche della sua singola situazione personale. È una lettera che secondo me evidenzia in maniera veramente impressionante le relazioni, la connessione tra amore romantico, diciamo, patriarcale, e autoritarismo dello Stato, istituzioni totali. Vi leggo la lettera. Carissime, io sono detenuta da 8 mesi per evasione forzata dalle violenze domestiche causate dal mio ex ragazzo. Mi picchiava ogni giorno, mi rompeva tutte le mie cose, mi spaccava il telefono, e io ero ai domiciliari senza neanche un'ora libera al giorno. Così sono scappata di casa e lui stesso mi ha chiamato agli sbirri. È stata dura riprendermi, soprattutto in un contesto dove la psicologa viene ogni 3 mesi, se sei fortunata. Non ho avuto nessun supporto, solo i miei ansiolitici e antidepressivi. Ora vi racconto come va avanti qua. La socialità e le lavatrici sono ripartite, perché erano state bloccate anche quelle insieme alle videochiamate e ai colloqui. Anche se nella socialità abbiamo un ping pong, 2 ciclette rotte e uno stereo lettore CD. Gli infermieri cambiano in continuazione, non abbiamo cure adeguate alle patologie che ognuna di noi ha. Io sono epilettica, da ottobre a ora mi sono prese 7 crisi e sto aspettando ancora la visita neurologica. Non ho nessuna cura e quando mi viene una crisi, una siringa di Valium e basta. Assurdo. Per parlare con il comandante o con un sovrintendente devo fare 1000 domandine e non ho mai ricevuto nessuna risposta né un invito. Abbiamo avuto invece l'invito al vaccino. Io non lo faccio, non lo voglio, ma niente tamponi, solo alle nuove giunte. Nessuna misura meno afflittiva del carcere, esce solo chi ha il cancro, il tumore all'ultimo stadio o chi gli rimane 3 mesi di pena. Penso di essere stata chiara. Voglio andare in comunità per non fare il carcere e aspetto da 1 mese una videochiamata del CERT per iniziare l'iter burocratico. Insomma, è un incubo. Parteciperemo attivamente l'8 marzo con tutta la nostra forza. Yeah. Ecco, dopo aver parlato quindi ancora delle detenute del Coroneo di Trieste, chiudiamo questa parentesi, diciamo, intorno all'8 marzo, presentando un'iniziativa che ci sarà qui a Udine il prossimo sabato 13 marzo, il pomeriggio dalle ore 16 in poi, sempre in occasione appunto della giornata internazionale della lotta delle donne contro il patriarcato, il capitalismo e l'autoritarismo dello Stato. E quindi ore 16, Piazza Libertà, angolo via Cavour. Il presidio è organizzato dalla Coordinamenta Transfemminista di Udine. Velocemente vi leggo il volantino: rivendichiamo fisicamente e collettivamente lo spazio pubblico per una riflessione critica e politica sulle ripercussioni sociali, economiche e psicofisiche del confinamento sociale che da un anno stiamo vivendo. Denunciamo l'aumento delle violenze di genere in ambito domestico e familiare, lo sciacallaggio degli antiabortisti per impedire alle donne l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, l'evidenza ancora una volta che non tutte le vite hanno pari valore nel sistema capitalista eteropatriarcale che combattiamo. Invitiamo a partecipare tutte le persone che si rispecchiano in qualsiasi genere, orientamento sessuale e identità e che ritengono una priorità la lotta per l'autodeterminazione dei propri corpi e delle proprie vite, la lotta alla violenza contro le donne, allo sfruttamento e all'oppressione patriarcale, all'eterosessualità obbligatoria e al binarismo di genere. E questo era il volantino di chiamata della Coordinamenta Transfemminista di Udine ad un presidio che si svolgerà sabato 13 marzo dalle ore 16 a Udine in Piazza Libertà, angolo via Cavour. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band statunitense, esattamente da Portland, nell'Oregon, ed era una band che si era formata fino agli anni 90, una band completamente al femminile. Loro erano le Arum Scarum e ci stiamo ascoltando alcuni brani da questo loro mini album uscito nel 2001 che si chiama Suppose We Try. Loro appunto erano le Arum Scarum e che abbiamo anche ascoltato prima durante tutti gli interventi che avete appena ascoltato. della dichiarazione degli imputati allegata agli atti del procedimento davanti alla sezione quarta del Tribunale di Milano all'udienza del 3 marzo 2021. Udienza, ricordo, per le contestazioni alla presenza delle bandiere israeliane nel corteo del 25 aprile 2018 a Milano. Innanzitutto ci interessa affermare che questo è un processo politico. Questa è una precisazione fondamentale che chiarisce fin da subito il carattere della nostra difesa, che è quello di essere una difesa politica. Questo è un processo politico perché le circostanze sottoposte a valutazione e giudizio riguardano un fatto politico, la contestazione della presenza delle bandiere dello Stato di Israele alla manifestazione del 25 aprile 2018 a Milano. E questo fatto politico, che è qui interpretato nell'impianto dell'accusa con la fattispecie dei reati di cui siamo imputati, fino alla provocazione della contestazione dell'aggravante di odio razziale. Il carattere politico è ulteriormente confermato dalla inconsistenza delle condotte su cui si è voluto istruire il processo, gesti, bottigliette di plastica e canne da pesca. È un processo politico che si inserisce in un'ampia e articolata campagna internazionale orchestrata al fine di indurre forzatamente l'equiparazione dell'antisionismo all'antisemitismo. Non stiamo qui a indicare tutte le articolazioni di questa campagna che vede coinvolte le giurisdizioni di diversi stati e il proliferare di processi simili al nostro in Europa e nel mondo. Ci interessa invece denunciare la finalità di questa campagna. Colpire la solidarietà internazionalista alla resistenza del popolo palestinese contro il regime colonialista che occupa ed espropria la sua terra. Un regime, quello israeliano, che persegue la negazione della causa nazionale palestinese al di fuori di qualsiasi stato di diritto, con omicidi, stragi, bombardamenti, detenzione amministrativa, senza nessuna legalità. Che arriva a incarcerare e torturare persino i bambini, ma anche praticare demolizioni di abitazioni, appropriazioni di fonti idriche, taglio di ulivi e alberi da frutto dei contadini e sequestro delle barche dei pescatori palestinesi. Tutto ciò per piegare la volontà di un popolo e ridurlo in uno stato di miseria e prostrazione per costringerlo ad abbandonare la sua terra, per confinarlo in Bantustan sempre più ristretti. Quello israeliano è uno degli esempi più feroci di quello che è stato definito colonialismo di insediamento, che abbiamo conosciuto nella nostra storia di occidentali, già messo in atto contro gli indiani d'America, gli aborigeni australiani, i neri del Sudafrica e contro molti altri popoli. Il fatto che le bandiere con la stella di David, che sono l'emblema di questo colonialismo brutale e genocida, siano presenti alla manifestazione della liberazione dell'oppressione nazifascista è palesemente una provocazione, di cui sono responsabili in primo luogo le organizzazioni sioniste, ma anche chi nell'alveo della sinistra italiana le sostiene. La nostra difesa politica non vuole fermarsi alla denuncia di questa provocazione, ma ribaltare l'accusa togliendo la maschera al sionismo per mostrare il suo vero volto, la sua natura intrinsecamente colonialista. Sì, stavo dando lettura alla dichiarazione che i compagni hanno svolto, hanno allegato agli atti del procedimento a loro carico davanti alla sezione quarta del Tribunale di Milano nell'udienza del 3 marzo 2021, compagni accusati, come si diceva, addirittura di odio razziale per le contestazioni alla presenza delle bandiere israeliane nel corteo del 25 aprile 2018 a Milano. Ecco, la dichiarazione letta precedentemente arriva a definire quali sono le finalità, cioè la finalità di criminalizzare la solidarietà con la resistenza del popolo palestinese di questo processo e vuole anche smascherare la natura del sionismo e quindi rovesciare l'accusa di razzismo verso i sionisti stessi. E infatti la dichiarazione prosegue dando la parola a uno dei padri del sionismo, Vladimir Jabotinsky. Quindi prosegue la lettura. Lo facciamo fin da subito con le parole di Vladimir Jabotinsky, padre fondatore dell'esercito di Israele fin dalla Haganah, la sua prima configurazione. Sono parole tratte dal suo libro Il muro di ferro, considerato la Bibbia del sionismo, principale testo di ispirazione per tutti i nazionalisti ebrei diventati poi israeliani. Non vi può essere alcuna discussione di riconciliazione volontaria con gli arabi. Tutte le persone ben intenzionate hanno capito molto tempo fa l'impossibilità completa di arrivare ad un accordo volontario con gli arabi della Palestina per la trasformazione della Palestina da un paese arabo in un paese con una maggioranza ebraica. Tutti i popoli nativi vedono il proprio paese come la loro casa nazionale, di cui saranno i padroni completi. Essi non permetteranno mai volontariamente un nuovo padrone, così è per gli arabi. Conciliatori tra di noi cercano di convincerci che gli arabi sono una specie di stupidi che possono essere ingannati con formulazioni scaltre dei nostri obiettivi fondamentali. Mi rifiuto categoricamente di accettare questa visione degli arabi palestinesi. Hanno la stessa psicologia che abbiamo noi. Essi considerano la Palestina con lo stesso amore istintivo e vero fervore con cui ogni azzeco ha considerato il suo Messico, o un qualsiasi Sioux la sua prateria. Ogni popolo lotterà contro i colonizzatori, finché si spenga l'ultima scintilla di speranza di poter evitare i pericoli della colonizzazione e della conquista. I palestinesi lotteranno in questo modo con audacia fino a quando vi sarà una scintilla di speranza. Non importa che tipo di parole usiamo per spiegare la nostra colonizzazione. La colonizzazione ha il suo significato integrale e imprescindibile, compreso da ogni ebreo e ogni arabo. La colonizzazione ha un solo obiettivo. Questa è la natura delle cose. Questo è nella natura delle cose. Cambiare la natura è impossibile. È stato necessario portare avanti la colonizzazione contro la volontà degli arabi palestinesi e la stessa condizione esiste ora. Ogni colonizzazione, anche la più ristretta, deve continuare a dispetto della volontà della popolazione nativa. Pertanto si può proseguire e svilupparsi solo sotto lo scudo della forza, che comprende un muro di ferro che la popolazione locale non potrà mai sfondare. Questa è la nostra politica araba, formularla in altro modo sarebbe ipocrisia. La forza esterna è una necessità per stabilire nel paese le condizioni di governo e di difesa per mezzo delle quali la popolazione locale, indipendentemente da ciò che desidera, sarà privata della possibilità di ostacolare la nostra colonizzazione. La forza deve svolgere il suo ruolo con intensità e senza indulgenza. Il sionismo è un'avventura di colonizzazione e quindi sta in piedi o cade per un problema di forza armata. È importante parlare l'ebraico, ma purtroppo è ancora più importante saper sparare, altrimenti ho finito di giocare alla colonizzazione. A rimprovero trito e ritrito che questo punto di vista è immorale rispondo: assolutamente falso. Questa è la nostra etica. Finché ci sarà la minima scintilla di speranza per gli arabi di contrapporsi a noi, non venderanno queste speranze, non per certe parole suadenti, né per qualsiasi boccone saporito, perché i palestinesi non sono una plebaglia, ma un popolo, persone viventi. E nessun popolo fa concessioni così enormi su simili questioni fatali, tranne quando non c'è più speranza, finché non abbiano rimosso ogni apertura visibile nel muro. Precisiamo che il testo in questione, The Iron Wall, fu pubblicato nel 1923, 10 anni prima della presa del potere dei nazisti. Questo dato storico sgombera il campo e mostra la falsità di chi giustifica l'occupazione sionista della Palestina come conseguenza dell'Olocausto, dello sterminio degli ebrei a opera dei nazisti. Dobbiamo senz'altro ringraziare Vladimir Jabotinsky per la chiarezza di questa esposizione su cosa è il sionismo. La sua mancanza di ipocrisia è da apprezzare, soprattutto se confrontata con l'ipocrisia di chi ai giorni nostri arriva a equiparare la denuncia e la critica pratica del colonialismo sionista all'antisemitismo e alla persecuzione degli ebrei. In proposito, denunciamo infine il carattere immorale della contestazione nei nostri confronti, dell'aggravante dell'odio razziale. Siamo sempre stati fieramente antirazzisti, il nostro riferimento storico principale è Karl Marx, ebreo e figlio di un rabbino. Cogliamo l'occasione per ricordare Olga Bernario Prestes, dirigente comunista tedesca ebrea, uccisa insieme a 200 sue compagne nel febbraio 1942 nella camera a gas sperimentale di Bernburg, con cui i nazisti diedero avvio allo sterminio a partire da comunisti e oppositori politici. Milano, 3 marzo 2021. Ecco, questo è il testo che i compagni hanno depositato, parla chiaro, ribalta le accuse a chi le formula, denuncia la natura del sionismo, denuncia l'operazione politica che sta dietro a questa manovra giudiziaria. Importante la citazione di Jabotinsky che dice: finché i palestinesi avranno speranza, noi li combatteremo e li combatteremo senza indulgenza. Noi sicuramente stiamo dalla parte dei palestinesi che lottano e per questo anche noi veniamo colpiti, veniamo diffamati, i compagni di Milano sono a processo sulla base di una diffamazione, di un teorema sionista accusatorio che vuole riversare sugli antisionisti l'antisemitismo. La speranza, i palestinesi hanno dimostrato di non perderla mai in questi decenni di colonizzazione, stanno lottando ancora. Sono ancora in piedi, non hanno mai accettato e non si sono mai arresi al colonialismo e noi stiamo al loro fianco, nonostante processi come questo, accuse, diffamazioni, attacchi, continueremo sempre a essere dalla parte della resistenza palestinese. Sì, sempre Zernis Magnetics, ritorniamo alle parole per proporvi un'altra lettera, ancora un'altra lettera, sempre di detenuti, e specificamente la lettera di 6 detenuti che racconta la rivolta al carcere di Varese che è avvenuta nel gennaio 2021. E poi questi 6 detenuti che scrivono sono stati anche arrestati per questa rivolta, quindi ritenuti responsabili, e raccontano tutte le circostanze in cui si è sviluppata la rivolta stessa. Buongiorno a tutti voi. Come prima cosa vorremmo ringraziarvi per la vostra lettera. Ci ha tirato molto su di morale sapere che là fuori c'è qualcuno che ha molto a cuore le nostre condizioni e la nostra causa. Vorrei come prima cosa scusarmi in anticipo per il mio italiano non perfetto e spiegarvi i motivi per i quali si è arrivati alla protesta nel carcere di Varese. Il primo episodio avviene ai primi di ottobre, dove un uomo viene trovato morto suicida nella sua cella singola. Non voglio entrare in merito ai motivi i quali lo hanno spinto a questa estrema decisione, ma sappiamo per certo che alcuni sintomi c'erano, nonché la mancanza di sorveglianza. Quello che vorremmo far notare è che la notizia non è uscita, almeno per ciò che sappiamo, né sui giornali o altro, e anche che il carcere se ne è ben presto dimenticato. Il secondo episodio riguarda Pasquale Siciliano, un uomo e amico di 50 anni che muore precocemente dopo appena un giorno dalla notizia di essere diventato nonno. Siamo ai primi di settembre. Premetto che a Varese, essendo un carcere piccolo, il sistema sanitario funzionava in questo modo, che alle 18 il medico finisce il suo turno lavorativo e fino alle 8 del mattino seguente non c'è personale sanitario. Sono le 21 circa e Pasquale si sente poco bene, lamentando dolori all'addome all'altezza del cuore ed un formicolio al braccio. Per questo gli viene data la medicina magica, che secondo loro cura ogni cosa e che viene data veramente come cura ad ogni malessere. A questo punto, dopo aver preso la tachipirina, viene rimandato in cella. Verso 00:30, l'una, non si sente bene, chiede aiuto e viene portato dalle guardie in infermeria. E dopo un'attenta valutazione medica di 1:30, dalle guardie viene rimandato in cella. Sono le 2:30 circa. 10 minuti più tardi, dalla sua cella si leva un grido di aiuto, suo e del suo concellino, al quale si sente rispondere dal capoposto di turno: «Finiscila di scassare». Sembra una storia da film, ma qui al carcere di Varese è realtà, perché sotto atroci dolori Pasquale muore verso le 3 del mattino. Lo chiamano infarto o morte naturale, ma non è così. Pasquale muore per la negligenza e l'omissione di soccorso delle guardie di turno, situazione che per noi non si può chiamare morte naturale, ma assassinio senza ancora un colpevole. Il giorno dopo, tutti i detenuti ci siamo recati fuori all'aria, dove al grido di «siete assassini» chiediamo spiegazioni, chiediamo di poter parlare con il magistrato di sorveglianza e ci rifiutiamo di entrare. Avevamo fatto i conti che era domenica e, come normale, che anche il magistrato ha di meglio da fare. A quel punto arriva il comandante, che dà rassicurazioni, che avrebbe preso le nostre testimonianze e che non avrebbe più fatto rientrare in sezione il capoposto, e noi rientriamo. Quel giorno abbiamo richiamato l'avvocato di Pasquale e ci siamo messi a disposizione per qualsiasi cosa. Inoltre sappiamo che era presente a quell'ora anche un parente di Pasquale. Se avete possibilità di contattare la sua famiglia, siamo di nuovo a disposizione per ciò che necessitano e di fare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia. L'ultimo episodio, il quale ha portato poi alla rivolta, riguarda Longo Francesco. Longo è colpevole di essere andato dal capoposto a chiedere la sostituzione del televisore perché rotto. Viene invitato ad entrare nell'ufficio del capoposto, dove era presente anche l'ispettore del MOF. Chiudono la porta e viene malmenato selvaggiamente a calci e pugni. Premetto che Francesco entra senza segni in un ufficio chiuso e senza telecamere, e dopo le grida che vengono da dentro lo vediamo uscire con segni sulla faccia e sulle costole. Frastornati da ciò ed essendo l'ora di rientrare nelle celle per la conta, ci rifiutiamo di rientrare perché pretendiamo risposte e spiegazioni. Si sussegue un via vai di agenti, ispettori e comandante che vengono a parlare con noi negando e cercando di insabbiare ciò che è successo, promettendo che avrebbero fatto chiarezza e giustizia. Longo viene portato in infermeria e scrivono che non ha segni, che sta bene e che il fatto non sussiste. Passa mezz'ora nel trambusto di chiunque ha qualcosa da dire e pensieri e richieste diverse. A quel punto Longo si accascia al suolo. Chiediamo l'intervento dell'ambulanza a gran voce. Ci vediamo arrivare il medico dell'istituto il quale aveva detto che non aveva nulla, e delle guardie che vogliono portarlo in infermeria. Non glielo permettiamo, perché ha segni sulle costole e può essere nocivo, e vogliamo l'ambulanza. Aspettiamo 5, 10, 20, 30 minuti, ma l'ambulanza non arriva. Dovete pensare che le carceri sono come le logge massoniche, che tutto deve rimanere tra loro, insabbiato, non deve uscire, perché nessuno deve pagare. E pensare che la nostra richiesta è semplice, ossia che Francesco venga portato in ospedale, curato e refertato per i danni provocati dall'ispettore. A quel punto, sentendoci presi per il culo, inizia la rivolta del carcere di Varese. Qualcuno allaga l'istituto con gli idranti e qualcuno spacca le telecamere, le luci, le reti, le porte, le finestre, i blindi, l'ufficio del capoposto, il gabbiotto blindato delle guardie e i quadri elettrici. A questo punto arriva una squadretta. La chiamano squadretta, ma entrano in 30 armati con manganelli, armi, caschi, scudi, lacrimogeni. Polizia penitenziaria, carabinieri, polizia, mancava la forestale. Non essendo in grado di entrare, fanno uso di lacrimogeni e gas di estintori. Essendo presenti in sezione e nell'istituto anziani, persone con problemi di ansia, eccetera, decidiamo di rientrare. In tutto ciò rimane ferito, per modo di dire, un detenuto che dentro la cella, avendo aspirato i gas, ha problemi respiratori e si accascia al suolo, soccorso dopo 10 minuti da una guardia folgorata dalla presenza di acqua e cavi di corrente aperti. Quindi c'è questo fatto, che questa guardia, insomma, rimane folgorata, e da questa situazione ci arrestano in 6, i quali siamo tutti stati portati in carcere a Busto Arsizio. Sappiamo che ci sono stati altri 31 trasferimenti a Como, Monza, Sondrio, Pavia, Vigevano, ma purtroppo di loro non sappiamo nulla e non abbiamo notizie. Possiamo dire di noi 6. Nessuno fino ad oggi ha subito problemi fisici, torture o altro, anche perché hanno fatto abbastanza, essendo che ci contestano i reati di danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale e devastazione, che prevede la pena minima di 8 anni. Per quanto riguarda noi a Busto Arsizio, nei nostri confronti c'è un clima ostile da parte delle guardie. È 3 settimane che siamo qui e c'è ancora chi non riesce a parlare con la famiglia. Siamo in sezione Covid, dove tutti fanno 14 giorni e dopo il secondo tampone negativo li spostano in sezione. Per noi no. Ci hanno dato 10 giorni di isolamento da fare, che faremo più avanti perché siamo ancora pieni. Noi siamo gli arrestati per la rivolta di Varese e vogliamo anche firmarci su chi siamo. Lengstakas Henrik, Albania. Jonas Vakar, Pakistan. Vizas Ruding, Albania. Tutino Stefano, Italia. Abubakar Mustafa, Ghana. Konrad Lofti, Tunisia. Per quanto riguarda i problemi di altri detenuti qui a Busto, che vogliono rimanere anonimi, posso dirvi: l'area trattamentale non funziona, anche se continui a iscriverti, nessuno ti chiama. Ti segni in sorveglianza, ma funziona uguale, o non ti chiamano, o dopo molto tempo. Fai le richieste tramite domandine e spariscono. Questo sia per quelli già qua che per noi che veniamo da Varese. Chiedi di lavorare, ma le condizioni sono due: o devi cominciare a fare l'infame o devi stargli simpatico. Hanno un criterio tutto loro per decidere. Le linee telefoniche non vanno e il centralinista non c'è mai per recuperare una chiamata. Il mangiare addirittura a volte è arrivato con la muffa, per non parlare della frutta, sempre marcia di routine. E con questo vi ringraziamo per le lettere, cioè per le buste, e per volerci dare voce. Vi prego di risponderci, se mai questa lettera vi arriverà, se non sarà cestinata, letta da loro, ma non ci interessa, o chissà. Vi ringraziamo e vi mandiamo un caloroso abbraccio, i detenuti di Varese e Busto Arsizio. Questa appunto era la lettera dei detenuti che hanno partecipato alla rivolta al carcere di Varese nel gennaio 2021. È importante, come la lettera precedente che ho letto, darne diffusione e mantenere la solidarietà verso queste persone. We'll be right back. appunto dopo la lettura di queste della detenuta del Coroneo e dei detenuti di Varese Busto Arsizio che hanno parlato della rivolta appunto dal carcere di Varese del gennaio 2021, quindi l'importanza di tenere i contatti tra dentro e fuori, vi do i nostri contatti. Allora, per scrivere in forma cartacea, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice postale 34121 Trieste. La mail liberetutti@autistiche.org e poi anche l'indirizzo del blog per riascoltare la trasmissione. zardingsmagneticsradio.noblogs.org. E siamo quasi alla fine. E io volevo, cioè siamo un po' alle strette, comunque volevo lo stesso leggere la dichiarazione di 10 prigionieri a sostegno di Dimitris Kofundinas in sciopero della fame. Abbiamo parlato anche lo scorso giovedì della situazione drammatica di questo prigioniero politico nelle carceri greche dal 2002, all'ergastolo, insomma, per accusato di terrorismo e all'ergastolo, componente del gruppo 17 novembre, del gruppo rivoluzionario 17 novembre, nato ancora sotto la dittatura dei colonnelli. E questo prigioniero, appunto, si diceva di questo sciopero della fame per ottenere un trasferimento dal carcere dove si trova al carcere di Korydallos, che gli spetterebbe. E parlavamo l'altra volta anche di questa determinazione di Kofundinas di non smettere, di rifiutare qualsiasi tipo di alimentazione forzata e qualsiasi tipo di rianimazione, convinto che appunto la sua vita, ma anche la sua morte, hanno, diciamo, delle conseguenze, avranno delle conseguenze rivoluzionarie. Quindi Kofundinas ha scelto, insomma, questa forma di protesta estrema, convinto di questo, appunto, che comunque in ogni caso qualcosa succederà. E vediamo che cosa ci dicono i prigionieri che lo sostengono. Nel momento in cui ci troviamo a scrivere queste parole, il militante Dimitris Kofundinas è al 55esimo giorno di sciopero della fame, in realtà sono di più perché la lettera qualche giorno, con l'unica richiesta di essere trasferito nel carcere di Korydallos, poiché il suo trasferimento a quello di Domokos era legalmente irregolare, dato che nel carcere femminile di Korydallos c'è un'ala speciale di alta sicurezza dove Dimitris Kofundinas ha scontato la maggior parte della sua pena e dove le detenute sono rinchiuse in completo isolamento. La sua richiesta sarebbe praticamente legalmente accettabile da subito, se non fosse per l'evidente desiderio di vendetta da parte dei funzionari governativi che hanno scelto di provocare danni irreversibili alla sua salute e di condurlo metodicamente alla morte. Naturalmente il governo di Nea Democratia non sorprende nessuno con il suo atteggiamento verso Dimitris Kofundinas, così come con il pretesto di combattere la pandemia ha sospeso i diritti democratici fondamentali, stabilendo uno stato di polizia soffocante in cui la libertà di movimento e il diritto di manifestare sono sospesi, in cui la società viene dissanguata economicamente e in cui la polizia invade le università e picchia gli studenti. Allo stesso tempo impone, senza alcun consenso, disegni di legge che minano i diritti dei lavoratori o disegni di legge scandalosi per i bambini, riduce i permessi di uscita dei detenuti e nega loro la scarcerazione anticipata in carceri dove i reclusi sono massicciamente esposti al virus Covid-19 e dove avvengono innumerevoli morti dubbie. Con tutto ciò diventa sempre più difficile distinguere questo regime da una dittatura. Tuttavia, l'assassinio di uno scioperante della fame è qualcosa che nemmeno la giunta dei colonnelli ha osato realizzare. Lo Stato greco sta diventando estremamente fascista e sta cercando di allinearsi alla Turchia di Erdogan. La responsabilità di questo imminente assassino di Stato è ovviamente del ministro per la protezione dei cittadini, Michalis Chrysokoidis, del suo superiore politico, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, e della Presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou. La vendetta del governo contro Dimitri Kofundinas è ormai visibile a tutti, così che l'unica possibilità e la responsabilità ultima di trovare una soluzione a questo sciopero della fame sembra ora ricadere nella Presidente della Repubblica. Le conseguenze della scelta compiuta dai responsabili non si limitano allo sciopero della fame. Se lo scioperante della fame Dimitris Kofundinas viene assassinato, una pagina nera della storia, avente le firme di Chrysokoidis, Mitsotakis e Sakellaropoulou, sarà scritta nella coscienza sociale e rappresenterà un'altra barbarie nella serie di provocazioni dello Stato contro una società sotto forte pressione. L'esplosione sociale è inevitabile e, anche se non si presenterà nell'immediato futuro, l'imminente assassinio da parte dello Stato rimarrà indelebile nella memoria sociale. E seguono le firme di questi 10 prigionieri a sostegno di Dimitris Kofundinas. Quelli che stavamo ascoltando adesso era una band francese, esattamente di Lyon, e dal loro album, il loro primo album uscito nel 2017, mentre tra l'altro in precedenza, negli interventi prima, abbiamo ascoltato alcuni brani dei Kalashnikov tratti da uno split assieme ad una band russa che si chiamano Flegmona, e loro appunto i Kalashnikov da questo loro split del 2013, che comunque è una loro raccolta di brani usciti recentemente. Ora, prima di salutarci e ricordarvi che state ascoltando Zardins Magnetics, programma che va in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21:30 qui dai studi di Radio Onde Furlane. E anche prima di andare ad ascoltare un ultimo brano di questa band francese, il Litige, vi ricordo nuovamente l'appuntamento per sabato 13 marzo, quindi dopodomani, presidio per la giornata internazionale della donna, ed avverrà in Piazza Libertà a Udine alle ore 16, ed è appunto un presidio organizzato dalla Coordinamenta Transfemminista di Udine. Bene, questo è diciamo tutto per questo giovedì, quindi ci riascoltiamo, cioè ci riaggiorniamo alla prossima settimana, sempre qui dai studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20, 20 e 15, con questo programma Zardins Magnetics. Ciao a tutti.